Pixa. Guarda de Blanca Records. Ci caccio l'anima nella tua terrazzina, ci caccio l'anima se porti la tua vicina, ci caccio l'anima sulla tipa che sbocchina, ci caccio l'anima, ci caccio l'anima. Ci caccio l'anima nella tua terrazzina, ci caccio l'anima se porti la tua vicina, ci caccio l'anima sulla tipa che sbocchina, ci caccio l'anima, ci caccio l'anima. E ci caccio l'anima col vino della cresima, ci caccio l'anima vomitata plurima, se caccio l'anima dentro al tuo giardino, man, ho sporcato tutto, man, a io farci un chiusino, man, offri, offri, offri vodka, birra, vino, man, muoviti, cerca il pusher più vicino su Google Maps. Un viaggio storto, un po' movimentato, merda, hai preso il fosso, cazzo, fermati prima che ti vomiti addosso. Ci caccio l'anima sopra il tuo vestito fashion, ci caccio l'anima se sento odore depuration. Cacciarci l'anima, tre dita in gola, ci caccio l'anima, cado dentro le uola.